Questa è Runtime Radio, la radio geek. Ogni venerdì mattina svegliarsi con un sorriso è tempo di scoprire nuove idee con Simone Pizzi, il grande reset, un dialogo sincero per costruire insieme un futuro più vero. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, ascoltarsi e confrontarsi con mente aperta e cuore. Runtime Radio, la voce del progresso. Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, migliore. Ascoltare, confrontarsi con mente aperta e cuore. Runtime Radio, voce del progresso, Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio, il grande reset. Il grande reset. Ah, belli de casa, bentornati qui sul grande reset, come tutti i venerdì mattina alle ore 7, però c'è qualcosa che non va. Qualcosa non mi ritorna, ma va bene, lo sapete che ogni tanto ci prende questa botta di entusiasmo a inizio stagione, quando siamo ancora freschi, abbiamo le energie di dire: oh, senti, ma io stamattina non c'ho proprio veramente un cazzo da fare. Allora ce ne andiamo dritti dritti in live, giusto per fare una puntata extra. Però vi dico subito che oggi è già uscita, l'avete vista se state seguendo ovviamente il canale Telegram ufficiale di Runtime Radio, dove vengono pubblicate tutte le novità, le news, le pubblicazioni, le live che facciamo, senza rompervi troppo i coglioni, quindi non lo potete considerare come una cosa spammosa così grave. Avete visto, insomma, che è uscita la nuova puntata di Runtime by Night, una puntata veramente molto interessante, una puntata con Chiara Carbone. Abbiamo parlato di questo suo interessantissimo libro, abbiamo esplorato il mondo Maori e soprattutto abbiamo scoperto tante cose, abbiamo sfatato anche molti falsi miti e abbiamo scoperto quanto la società Maori da sempre è una società paritaria e dove il pensiero sovversivo femminile Maori ovviamente ha destabilizzato anche la società britannica che si è insediata come al solito dopo l'arrivo del buon Cook. Ascoltatevela, una bella puntata, simpatica, non pesante, molto piacevole. L'abbiamo sempre resa nello stile di Runtime by Night, merita di essere ascoltata. Vi ricordo che oggi pomeriggio alle 17 invece c'è Walter Sbane che torna con il suo prova microfono e sta cercando di trovare una dimensione, una frequenza, una collocazione per riniziare le orazioni della sera, che non è ovviamente un obbligo, potrebbe trasformare le orazioni della sera in qualcosa di simile a prova microfono, chi lo sa, ma non lo sappiamo, perché ci vuole fegato, energia e soprattutto capacità di saper sopportare quello che ovviamente sta succedendo nel mondo, ma poi adesso ne parliamo. Vi dico, ragazzi, che sarà puntata un po' così, anche molto easy, molto alla leggera, perché in realtà non ho preparato un granché, mi è frullato una cosa in testa, ho detto ma quasi quasi ci faccio una puntata, potrebbe essere anche una puntata leggera. Vi dico anche in maniera tranquilla che oggi ci ascoltiamo una playlist un po' migliore di quelle che sentite, un po' random, ci saranno i Led Zeppelin, The Doors, Bruce Springsteen, e noi adesso, giustamente, dato che questa è la parte introduttiva, avrei dovuto dire cose che però ovviamente me ne sono dimenticato, direi che possiamo iniziare con un po' di Metallica. We'll be right back. Ah, sento le bestemmie, ecco le bestemmie, mi state bestemmiando contro, lo so ragazzi, però d'altronde un brano di 8 minuti, però tra l'altro un brano che tutto sommato in qualche maniera ci azzecca perché un po' è contestualizzato da un certo tipo di discorso che vorrei anche cercare di fare. Mi ricordo di avervi raccontato che una volta io ho fatto un'esperienza personale molto molto interessante, ero veramente molto giovane, in un periodo in cui io seguivo tutto quello che faceva un mio amico, ma non perché ero condizionato da quello che decideva lui e allora io poi lo facevo, ma in realtà per una questione di protezione, cioè io lo seguivo nelle sue esperienze per cercare poi di estrapolarlo dalla follia di intripparci, di entrare dentro, una sorta di guardiano della sua vita. Poi a un certo punto l'ho mollato e infatti è finita male, però d'altronde non è che posso seguire praticamente il percorso di ognuno semplicemente per salvarli. Io questa cosa un po' da samaritano, da pater familias, ce l'ho sempre avuta, ma poi a un certo punto dico, ma anche i isti igatsum, dicevano i latini, però non i latini romani, i latini quelli prima dei romani, insomma, lo dicevano proprio con una certa convinzione, tant'è che poi dopo alla fine tutto sommato questa filosofia è subentrata nel contesto culturale romano. E questa esperienza nel particolare era nata andando praticamente nei centri, no, centri d'accoglienza, diciamo negli ospizi, insomma, non so come dico, negli ospedali, neanche nelle strutture che ospitano gli anziani fino a che, insomma, morte non ci separi, diciamo così. E all'interno di questa struttura, e quella struttura in particolare che ero andato io, non era neanche male, perché facevano già veramente, ragazzi, erano gli anni 90, cioè forse era proprio il 1990 addirittura, se non mi ricordo male, 89, 90, 91, insomma quel periodo lì. Era comunque una struttura ben organizzata, gestita dalla comunità di Sant'Egidio, che è importante all'interno del contesto di questa storia, e praticamente facevi assistenza agli anziani nella maniera forse più leggera, e anche quella a volte anche utile, no? Che è quella di stare lì e li ascoltavi, facevi compagnia. Era una cosa che a me piaceva fare. Io sono entrato sono stato invitato da questo mio amico, sai, noi facciamo questa cosa. Lui era già mezzo entrato in questo gruppo praticamente, e io mi era sfuggita questa cosa, quindi subito sono accorso per cercare di salvarlo. Però l'iniziativa era carina, era molto molto carina. E c'erano dei vecchietti molto simpatici, c'era quel vecchietto che ti raccontava sempre la stessa cosa, sempre su quell'episodio della Seconda Guerra Mondiale, e c'aveva il libro c'aveva l'enciclopedia di tutte le armi della Seconda Guerra Mondiale, era proprio fissato, insomma, era probabilmente anche un fascista, insomma, però insomma non siamo entrati nel merito, perché comunque lui neanche se lo ricordava quello che ti aveva raccontato, e te lo riraccontava. C'era la signora molto anziana che però si truccava, si metteva il rosso sulle guance, molto carina, con degli occhi bellissimi, se doveva essere stata una donna bellissima, che si metteva lì e cuciva le bambole. Cioè ognuno faceva, insomma, le proprie attività, e tu gli facevi compagnia a sta gente, no? Quindi stavi lì e loro erano contenti, gli portavi quell'ora di piacere, di piacevolezza all'interno di quel contesto ogni una volta a settimana, molto probabilmente, adesso non lo ricordo. E mentre che stavamo andando via da questa esperienza che mi era piaciuta tantissimo, dove ho conosciuto anche il mio amico Marcello, che saluto, grande Marcello, grande compagno Marcello, compagno inteso insomma come si intende essere di sinistra oggi, insomma, quindi nel bene e nel male, ecco, diciamo così. E alla fine proprio lo stesso Marcello mi dice: ma lo sai che noi abbiamo questo gruppo, insomma, che facciamo queste iniziative, vedo che ti piace, magari ti può interessare far parte di questo gruppo. Perché Marcello allora non si era reso conto di quello che era un po' la realtà, il background di queste micro realtà un po' nascoste, no? E dice: ah, facciamo un incontro nazionale a Rocca di Papa, a questo albergo, vieni pure tu. E ci andai, l'ho raccontata comunque questa storia, quindi non la riracconto. Ci andai e scoprì una realtà che si chiamavano tipo Centro di Solidarietà Popolare. Era una cosa collegata alla comunità di Sant'Egidio e a Democrazia Proletaria. Voi direte: come può essere? Non lo so, ma era così. Quindi stacce, cioè nel senso era così, era una cosa che abbiamo scoperto piano piano. Però la cosa che ho imparato là dentro, la grande esperienza che mi ha fatto, è che quando si creano queste sette, perché poi alla fine della fiera era una setta, e c'era praticamente questo agglomerato di persone che avevano dei problemi sociali, avevano dei problemi interpersonali, comportamentali, di relazione, tutte la classica vittima tipica di una setta, no? E quelle persone che venivano accolte perché il messaggio classico tradizionale era: il mondo è il tuo nemico, questa è la tua famiglia. E alla fine questa gente si faceva convincere a questo tipo di discorso, e poi dopo li istradavano su tutto il resto, che la tua coscienza è la Bibbia, quello che devi fare sta scritto sulla Bibbia e via dicendo. Ma la grandissima esperienza stava proprio nel fatto che questa gente, quando si facevano i gruppi di chiacchierate, lì, insomma, si creavano questi mini Odeon praticamente, dove ogni gruppo regionale poi faceva una sorta di seduta, insomma, quotidiana, dove si parlava e poi si facevano dopo le altre attività, vedevi proprio la difficoltà. Io ho imparato a vedere la difficoltà delle persone ad essere inserite all'interno di un contesto, gente che, come parlava, gli tremava la voce e piangeva. E la seconda cosa che ho imparato, e questa mi è servita tantissimo, tu dici hai scoperto l'acqua calda, sì, ma io ero un pischello e mi approcciavo a un certo tipo di universo in quel momento lì. L'altra cosa che veramente mi aveva colpito è il fatto che queste persone trovavano la necessità fideistica di essere convinti che quel mondo, quella realtà, era la loro realtà, perché al di fuori di tutto non c'era più niente, e per loro la vedevano come una salvezza, avevano bisogno di quello. E questa cosa del bisogno poi ritornerà tantissime volte nella mia vita, tante di quelle volte che in realtà poi alla fine ho focalizzato un po' il mio pensiero da persona che non ha studiato determinate tematiche, no? Che non si è approcciato nel conoscere come funzionano le cose. E la scoperta più grande è stata proprio quando noi, in una delle riunioni, quelle nazionali, io e altri ragazzi parlando, compreso Marcello, che era inserito all'interno di questo contesto, che però parlando si era reso conto che c'era qualcosa che non andava, c'era un approccio un po' distorto da questo, e abbiamo provato a fare una domanda, no? Una domanda che era un po' una domanda provocatoria, ma era fatta in buona fede, non era fatta in... Non volevamo ancora rompere i coglioni, poi dopo, da lì in poi, chiaramente volevamo rompere i coglioni, perché ci siamo resi conto che la loro risposta è stata la risposta di uno che non ti vuole dare una risposta e che vuole ridicolizzare la tua domanda. E la reazione è stata più inquietante del fatto che c'è stata quella risposta. È stata la reazione di gente che rideva pur non ridendo, perché non c'era niente da ridere, non faceva ridere, ma loro avevano bisogno di ridere per deridere la domanda, che era una domanda in contrapposizione alle loro esigenze. Quindi questo mi ha fatto capire che al di là delle sette, che fanno parte poi in realtà di una realtà molto particolare, no? Molto specifica, molto settaria, appunto, in realtà questa cosa la puoi trasporre nella vita normale, ed esistono diversi tipi di persone. Il primo tipo di persone che io individuo, e soprattutto in questo periodo, ma lo si individua anche un po' conoscendo, leggendo le storie, leggendo i libri, leggendo anche le ricerche che sono state fatte, e poi anche le storie dei nostri nonni, dei nostri zii, delle persone che ci hanno raccontato tutto quanto, vedi certi comportamenti anche quando è nato il fascismo in Italia, quando c'era il nazismo negli Stati Uniti, quando c'è il governo israeliano, è la stessa cosa, cioè è tutto quanto facente parte della stessa visione quasi messianica dell'esistenza, no? E quindi il primo tipo di persone sono quelle persone che vivono in un contesto ideale, completamente ideale, di perfezione, fatto di ordine di Dio, quindi di ordine di fede e di rifiuto. Sono le persone alle quali oggi il ministro Taviani parla, perché sono quelle persone che non hanno nessuna intenzione di ascoltare quello che viene da di fuori e ha bisogno di qualcuno che ridicolizzi il pensiero di qualcuno che la pensa diversa da loro. Quindi questa visione settaria dell'esistenza è quella che ha portato alle più grandi dittature a livello mondiale, no? Che ovviamente poi si basano sulla costruzione di questo fenomeno sociologico, no? Si basano sulla distruzione dell'informazione, si basano sulla distruzione dell'istruzione, tutte cose che abbiamo detto centinaia e centinaia e centinaia di volte, no? Quindi alla fine ti domandi, ma queste persone che vivono questioni estremamente personali e anche un po' mitologiche, come la fede, che per carità è una cosa che va rispettata perché è un atto intimo, e l'ordine, quindi la visione di una società ordinata con le casette tutte in fila, alla fine non c'ha niente a che fare con un pensiero, c'ha a che fare con il non pensiero e quella necessità, quel bisogno del delegare completamente tutto a un'entità superiore, che esista o non esista. Perché alla fine, secondo me, quella scena del tizio su TikTok che va a spaventare la gente, a me fa ridere questa cosa, perché che spaventa la suora e fa buh, la suora si spaventa, porco. E lui se la guarda e fa, ma sorella? E lei si vergogna, perché mi fa ridere, perché secondo me in realtà questa cosa di essere legati a una visione rigorosa, intransigente, dove c'è un Lord Supremo che è addirittura ultraterreno, che non ha neanche bisogno di essere un uomo, ma gli uomini sono in realtà il frutto della volontà del Lord ultraterreno, è proprio un bisogno, è una necessità settaria. È lo stesso meccanismo di quei ragazzi che stavano lì e piangevano mentre che parlavano, perché hanno dei problemi grossi, profondi, e nascondono tutti questi problemi all'interno di un contesto di ordine, di schema. E questo schema, appunto, abbiamo detto, non vuole e non ha nessuna intenzione di ascoltare cose che vengono da di fuori. Preferiscono sentire ministri degli esteri che dicano delle cose banali, poi dopo ci arriviamo, banali, cioè banalizzanti e drammatiche e gravi, però poi ci arriviamo, o presidenti del Consiglio che non solo sono l'incoerenza rispetto a quello che pensava 20 anni fa, e quello un po' succede, per carità, ma è proprio questa voglia di denigrare, che è la strategia più tipica del fascismo, cioè di tutte quelle persone che comunque non vogliono che tu la pensi così. E qui arriva il secondo tipo di persone. Comunque, mi si critica che non ho interrotto le Zeppelin, ma voglio dire, le Zeppelin fanno parte della mia storia, è una cosa che mi porto dentro, ma anche Metallica, però vedi, è proprio, non è una questione di merito musicale, è proprio una questione personale, individuale, è una questione proprio personale. Tra l'altro, pensavo, prima di arrivare alla seconda tipologia di persone, al fatto che un giorno se fosse veramente mai esistito, esiste o esisterà in futuro un Gesù Cristo, no? A me questo mi piace. Mi piacerebbe un giorno, si comunica, arriva sta voce dal cielo, no? Fra mezz'ora il Cristo scenderà. E io vorrei andare lì, no? Dimmi dove, così. Vorrei andare lì perché lo vorrei vedere questa cosa del Gesù Cristo che scende, no? Piano piano a terra, no? Come Superman. E praticamente si appoggia su questa pedana che si materializza, perché lui è il figlio di Dio, può fare quello che cazzo gli pare, eh? Cioè, è un po' come Superman, non gli devi romper cazzo, cioè lui può fare come gli pare. E praticamente si materializza e lui scende piano piano guardandosi intorno, no? si guarda intorno e tutti sotto, chi se batte il petto, chi, no, tutta sta gente, ah, il nostro Signore. E lui continua a guardarsi intorno e non dice niente, continua a non guardare, guardare e non di niente. No? Tutti, piano piano tutta sta folla acclamante, che si batte il pezzo lì, che si frustano, quelli col rosario, quelli che si danno, che se fanno la croce di fuoco sulla pelle, stanno lì tutti invasati. E piano piano tutta sta cacciata si calma, no? Perché tutti stanno aspettando un gesto, ma lui neanche un gesto fa, lui continua a guardarsi intorno, non fa un cazzo, sta lì. Si guarda intorno, non alza la mano, non alza un gesto dalla tunica, niente, lui si guarda intorno e ha questa espressione così indefinita, così indecifrabile, no? Come un grande giocatore di poker. E tutti, e la folla piano piano si calma, anzi, tutto sommato stanno pure incominciando a farlo del culo, perché loro vogliono che lui dica quello che loro vogliono che dica e non vedono l'ora che lui lo dica. E lui continua a guardarsi intorno e quando proprio tutti si sono azzittati dice: mannaggia a me, che è la più grande bestemmia che uno possa fare, è Gesù Cristo che bestemmia se stesso, sarebbe proprio una cosa meravigliosa. Io sarei l'unico che a quel punto mi alzerei in piedi, anzi vorrei avere gli stessi suoi poteri per alzarmi sopra la folla e batte le mani a quattro canasce, a quattro dei bastoni, batte i mani, i piedi, tutto, batto tutto. Mannaggia a me, che cazzo avete combinato? Lui comincia a dire tutti, perché voi sapete che questi ultracattolici cristiani transisti, se tu esprimi un pensiero che poi è diverso da quello che loro vogliono, loro ti discreditano, non so più, non gli frega un cazzo se sei il Papa. Io ho sentito dire cose su Papa Francesco, ragazzi, da dei prelati, una volta veramente poi ve lo racconterò sta cosa, forse ve l'ho raccontato, non lo so, ma secondo me loro arriverebbero pure a screditare Gesù Cristo, vabbè, ma questo che cazzo ne sa, mica è Dio, alla fine è solo il figlio, è un coglione, no? E lui si guarda e dice: mannaggia a me, che cazzo avete combinato, non avete capito un cazzo. E ci aggiunge: li mortacci vostri, perché voi dovete considerare che Gesù Cristo, che è un palestinese, alla fine scende e parla romano, perché lui è stato tanto tempo in mezzo ai romani, e dice: mannaggia a me, i mortacci vostri, non avete capito un cazzo, avete distrutto il pensiero e l'avete trasformato in un'istituzione politica che è diventata transpolitica, transgovernativa, transnazionale, dal Papa ai governi di tutto il mondo, quando in realtà il mondo dovrebbe essere governato in senso laico, per rispetto di tutti, per anche una questione di coerenza. Non è la fede che deve governare il mondo, non sono i testi religiosi musulmani o ebraici, perché ragazzi è uguale, ragazzi. Noi, cioè, voi fate il discorso, l'integralismo palestinese è la stessa identica cosa, se leggete la Bibbia noi dovremmo dare fuoco ai nostri fratelli, bruciare le nostre madri, lapidare le nostre figlie, dovremmo fare di tutto, cose di una brutalità inenarrante, e se tu poi lo prendi per presa di posizione, chiaramente questo non può essere buono, no? Comunque, al di là di questa immagine, questo sogno mio bagnato, che purtroppo non avverrà mai perché non esiste né Gesù Cristo né il nostro Signore Dio, arriviamo alla seconda categoria di persone, la categoria di persone più pericolose per un governo reazionario e oltranzista. Non so gli anarchici, i comunisti, gli attivisti, i rivoluzionari, quelli che scendono in piazza. No, quelli li conosci, li gestisci. Casomai gli dai quattro zaccagnate, li arresti e vaffanculo. Ma sono le persone indefinite. Sono quelle persone che non è che non avrebbero un'idea, ma non ce l'hanno, perché la penetrazione delle cose che sanno è relativa e controllata ovviamente da un certo tipo di governo, di forma di informazione. Tutti quelli che scrivono con la disperato bisogno di compiacere le persone, quando tornano a casa a guardare i propri figli dicono: sono veramente orgoglioso di essere un servo di merda. E quindi queste persone non hanno un'idea. Ce l'avrebbero pure, perché magari in qualche maniera nelle coscienze individuali di ognuno di noi tutti abbiamo un pensiero, tutti abbiamo un'empatia, tutti proviamo dei sentimenti. Poi c'è magari qualcuno che dice: oh, a me mi piace vedere la gente che decapita i bambini. Mi piace vedere che li bruciano, perché io ho fatto così. Sono nazista e voglio il Dio che dice che dobbiamo bruciare tutti. Ci sta. È la sua posizione. Poi però ci stanno quelli ancora di più che probabilmente invece un'empatia, un senso d'umanità, un rispetto verso le cose e le altre persone magari ce l'hanno pure. Magari hanno delle idee un po' così, un po' contraddittorie, perché sentono un po' di qua, sentono un po' di là. Non gli arriva la verità, che è quella che sta arrivando, che è quella che sta bucando gli schermi di tutto il mondo, grazie a un sistema che loro non hanno ancora capito come controllare, che è internet, che è la rete, che è YouTube, che è le live video, durante gli eventi, durante il momento in cui accadono le cose e tu non le puoi revisionare secondo la tua visione del cazzo, perché le stai vedendo, sono in diretta, sono lì, e non è uno con una fiction, ma sono 10, 50 persone che riprendono tutti in contemporaneamente lo stesso evento. E quindi quando questo arriva a quelle persone indefinite che stanno lì e che alla fine sfuggono a un certo punto al controllo, perché non lo sai chi sono, non le puoi intercettare, e allora ti ritrovi un milione di persone in piazza. Ti ritrovi un milione di persone in piazza che non sono soltanto quelli che politicizzati, i comunisti, gli anarchici, i rivoluzionari, i facinorosi, i teppisti, il secchio giallo violentato a Milano, poveraccio. Non sono solo quelli, sono tutta quella parte indefinita della società che a un certo punto sono vittime di una breccia, di qualcosa che si rompe e che si è rotto. E chi gli porta le informazioni che loro non avevano, e vedono le foto dei corpi bruciati, vedono le foto dei bambini mutilati, vedono le foto delle madri incinta con un buco in testa, vedono le foto di quello che un governo criminale sta facendo, pirata, criminale, terrorista, sionista e, mettiamoci anche, fondamentalista, sta facendo. E allora ti ritrovi un milione di persone in piazza. E poi c'è la terza categoria di persone. She lives on Love Street, lingers love. Allora, vediamo un po' un attimo, devo fare una cosa ragazzi, aspettate un secondo perché... Praticamente il bello di questo mixer è che c'ha una marea di tracce, comprese quelle virtuali. Il brutto è che quando stai registrando non puoi più modificare l'assetto ovviamente di quello che stai facendo. Quindi devo provare a sentire, se riusciamo a sentire, il messaggio di Word Sbano. Metto in pausa un attimo la base. Grazie. Sentiamo. Purtroppo non ero attrezzato, non avevo considerato questa opzione. Momento però, perché se lui dice mannaggia a me, che cazzo avete combinato, non va bene, perché se è Dio, tutto quello che succede è frutto della sua volontà e lui sa tutto, quindi già lo sa. Quindi se scende e parte così, io lo vi a schiaffi. Allora sì, cioè, in effetti è un pensiero con il quale non avevo considerato. Aspettate che rimetto la base, è tutto live qua, noi siamo artigianali, Radio Artigianals. Leva la pausa. No, come si fa? Si fa così, ok, perfetto. Che bello. Ma in realtà è vero quello che tu dici, però anche se Dio sa che tutto quello che è successo, succede e succederà, lui però ce l'ha dato il libero arbitrio. Cioè io gli ho detto, io lo so quello che farete nella vostra vita, però io ve lascio fa. E quindi dopo qualche migliaio di anni, dopo un par di migliaia di anni, ritorna e dice: ma che cazzo avete fatto? Però sì, vabbè, in realtà alla fine è responsabile pure lui, cioè non è che... alla fine era un truffatore, era quello che prendeva l'amico suo, lo metteva all'angolo della strada, sono cieco, lo andava là con le mani, adesso non sei più cieco, non so più cieco. Tra l'altro c'è un video bellissimo di quelle... allora, io su questo sono d'accordo con tanti, cioè tutti questi video generati con l'AI secondo me sono un po' una cosa da mettere sotto controllo per tanti motivi, anche per l'imbecilume della roba che tirano fuori. Però c'è una che è bellissima di sto tizio praticamente sulla sedia a rotelle e praticamente Gesù arriva Gesù, lo tocca, dice: adesso vuoi camminare? Quello si alza in piedi e che cazzo, vaffanculo, così ho perso la 104, brutto stronzo. Cioè tutto sommato, no? Alla fine il senso è quello. Comunque ci sono poi l'ultima categoria delle di persone, poi vabbè, milioni di sfaccettature, che sono quelli che a un certo punto dicono: oh, sta roba è una merda, quello che sta succedendo è una merda e noi dobbiamo cercare di risolvere. E sono quelli che ovviamente hanno trascinato tutti gli altri in piazza con manifestazioni importanti. Manifestazioni che, tra l'altro, per quanto la destra abbia provato a svilire, ovviamente si sono ritrovati come una bomba da gestire. Adesso loro sono in difficoltà su sta cosa, perché sanno che la questione ha preso più piede di quanto loro stessi si aspettavano. E quindi mo so cazzi per culo. Tra l'altro, sono assolutamente d'accordo con le dichiarazioni di un tizio che vedevo l'altro giorno, adesso non lo ricordo, ragazzi, mi dispiace, che diceva: vabbè, ma oggi tutti i giornali, New York Times, The Guardian, Repubblica, adesso tutti quanti incominciano a far penetrare quelle notizie che stavano lì e che prima censuravano completamente. Escono le foto, no? Escono le immagini, escono le storie, escono le notizie, appunto, no? Perché? Ma mica perché si sono redenti, semplicemente perché il movimento d'opinione si è spostato. È la stessa cosa che è successa un po' con la CGIL, se voi ci pensate, no? La CGIL è completamente allineata a quella sinistra istituzionalizzata che dovrebbe essere la rappresentazione del nostro essere contro determinate cose che invece hanno fatto tutti finta di niente, anche loro hanno un po' denigrato, un po' sbeffeggiato certe determinate iniziative. Poi magari perdono 50.000 tessere, così, pam, puntata in bianco e dice: oh, cazzo, no, qualcosa non va. Poi che nella base della CGIL ci sia gente che ancora ci crede veramente a un certo modo di pensare, a un certo modo di ragionare, a un certo modo di fare sindacato, io non lo metto in discussione, no? Però è chiaro che qui il problema è globale, più istituzionale da un certo punto di vista, no? Ma la cosa che veramente è più sconvolgente ed è questo, io lo dico da tantissimo tempo sta cosa. Allora, questa trasmissione si chiama Il Grande Reset, no? Allora alcuni possono dire: ah, ma tu sei un complottista. Allora, io sono un complottista nel senso più realistico possibile. Poi non è detto che quello che dico c'ha un senso, ma per me ce l'ha un senso. Perché se io vedo, in particolare dopo Capitol Hill, ma questa è una cosa che va avanti da tantissimo tempo, no? Vedere un certo tipo di blocco politico che è organizzato, ragazzi, non è un caso che questi stanno lì. C'è una progettazione che parte da lontano, c'è una costruzione, sono alleanze, c'è un lavoro anche generazionale, no? Quello che avremmo dovuto fare noi a sinistra è che a un certo punto, no, noi eravamo impegnati a dire le stronzate e a dare retta alle persone come Rutelli o Veltroni. Che insomma, tutto sommato, Veltroni lo stimavo anche quando ero pischello. E alla fine, cioè, la cosa che ti sconvolge è il fatto che l'azione globale, internazionale e interna di queste realtà è quella della continuo martellare lo Stato di diritto, lo Stato di diritto interno dei paesi. Nello Stato di diritto internazionale. Lo Stato di diritto internazionale e le istituzioni internazionali come le Nazioni Unite. cosa e chi ha interesse a desautorare, a screditare e a distruggere un sistema giuridico e istituzionale a livello internazionale, a livello globale anzi. Ce l'hanno tutti coloro che hanno un interesse di creare una nuova egemonia, un nuovo potere, diciamo sostenuto da una sorta di globalizzazione tecnologica che comunque incentiva, permette di fare determinate cose in favore di appunto di questa nuova visione di un mondo come lo dichiarano loro, distruggendo ovviamente tutto il resto che è stato costruito in decenni di fatica, di impegno, di discussioni, di cooperazione, di alleanze, di pacificazioni e di tutto quello che più ne ha più ne metta. E che cos'è questo se non un atto reazionario e sovversivo? Anzi no, sovversivo, eversivo. C'è eversione a livello internazionale per portare un nuovo ordine a livello fascista che è in atto. Non è che è una cosa che dice è in atto, oggi è così, perché se un ministro della Repubblica ti dice sì, il diritto internazionale conta fino a un certo punto. Vuol dire che quegli interessi di cui avete bisogno, quei padroni di cui avete la brama, la necessità, proprio vi esplode il cuore per andargli a leccare il culo, sono più importanti di quello che l'organizzazione mondiale è riuscita a costruire in 70 anni di storia. Perché la Meloni, che è artefice di questo sistema, è interessata più nell'entrare in questa egemonia globale, della quale prenderà due spicci, perché non si rende conto che essere servile in quel modo non gli servirà un cazzo, perché non se l'anculano de pezza. Se l'anculano nel momento in cui lei fa le cose che dicono loro, ma se poi dopo ovviamente queste cose che dicono loro devono essere devono portare a qualcosa, è ovvio che sul bilanciamento dell'importanza, cioè dopo che ce ne sono gli Stati Uniti, dopo c'è il Regno Unito, dopo c'è la Francia, dopo c'è la Germania, dopo c'è Gesù Bambino Bambò, forse arriva pure l'Italia, che vuole partecipare alla ricostruzione di Gaza. Ma voi vi rendete conto di che cazzo stiamo a parlare? Stiamo a parlare di gente che ha completamente distrutto qualsiasi tipo di rapporto empatico della politica, costruendo questa barricata ideologica nei confronti del resto del mondo e del resto della popolazione. E quando io mi sento dire la Meloni che dice non pagheremo il volo di Stato per andare a riprendere gli italiani torturati da Israele, umiliati da Israele, da uno stato canaglia della quale noi continuiamo ad essere amici, con le mani sporche di sangue gli vendemo le armi, non andiamo a prendere i nostri cittadini, ma Chico Forti, accusato di omicidio e probabilmente quasi sicuramente colpevole, o altri criminali di stato in giro per il mondo, il volo di stato glielo pagate, il volo di stato che non è tuo ma è della popolazione italiana, e un governo come quello italiano ha il dovere di andare a soccorrere i propri cittadini nel resto del mondo quando sono in difficoltà, il dovere, ed è un dovere sancito, non è una stronzata. State umiliando il diritto nazionale, internazionale, le istituzioni mondiali, state umiliando la Costituzione, e questo movimento vi sta facendo capire che un giorno, da dove siete venuti, probabilmente c'è il rischio che ci ritornate. Well, they blew up the chicken man in Philly last night. Now they blew up his... E vabbè, un giorno di questi ci prenderà il coccolone, ma alla fine ringraziamo anche Bruce Springsteen. Io sono qui sempre, faccio il vigile di fronte alla bandiera della Palestina che abbiamo oramai costantemente appeso di fuori la finestra, aspettando che arrivino delle Molotov o che avveleneranno cani e gatti, non lo so, qualcosa succederà, ma non fa niente, raga. E come ho detto la puntata di venerdì, bisogna sollevarci, bisogna pensare che sia, è giunto il momento. È giunto il momento di riprendere un po' la dignità. Non importa come la vedete, se votate liberale, se siete anche di destra, se siete dei centristi, se siete dei cattolici, se siete di sinistra. Quello che dovete capire è che dobbiamo ripristinare quell'ordine. Quell'ordine che oramai è seriamente in pericolo, ragazzi. Quell'ordine, non ordine e disciplina come lo intendono loro, ma quell'ordine di cose, quei diritti, quelle istituzioni, quel prendere il mondo che riprende cura di se stesso. E faccio anche un appello alle popolazioni arabe nei paesi arabi che stanno completamente ignorando per ragioni di interessi economici quello che è ovviamente un problema dei loro fratelli palestinesi, che è una cosa veramente ancora più grave rispetto a quello che sta succedendo. Però vabbè ragazzi, buona domenica a tutti. Vi ricordo che oggi pomeriggio c'è Walter Sbano. Vi dico il tema della prossima puntata. Il tema della prossima puntata, se non ci saranno motivi di cambio idea, insomma, parleremo di un altro argomento, un argomento più easy, più leggero, ma che a volte ci fa incazzare allo stesso modo, che è un po' quei temi che portavamo a morti di bestemmie quando parlavamo, insomma, della gente che faceva cagare sul vasetto i bambini nei ristoranti, perché tutti si pensano che in un mondo come questo ognuno ha più diritto degli altri di fare quello che cazzo gli pare. Perché pensano che questo significa democrazia e libertà in qualche maniera. Quindi parleremo di questo tema, che con una puntata che si intitola Stai sempre con sta pippa in bocca. Se avete qualcosa da dire, mandate degli audio e ovviamente ci ascolteremo su questa cosa. Detto questo, grazie di tutto. Vi dico ovviamente a chi interessa e a chi non interessa che adesso ci riascoltiamo ovviamente la cenere. Anzi, la Nina Nanna della Cenere del Silenzio, che è il secondo brano di Falce e Macello. Sostenete il nostro progetto, falcemacello.it, senza la I in mezzo. E perché lo dovete sostenere? Fatelo girare, mandatelo in giro. Perché oggi noi tireremo fuori questi 7-8 brani realizzati con l'intelligenza artificiale, sebbene c'è un lavoro meticoloso dietro. Questa canzone ad esempio è la totale rielaborazione di una canzone che io ho già fatto un po' di tempo fa, ma è importante perché in realtà c'è un progetto, un sottoprogetto più grosso dietro, che porterà ovviamente alla costruzione di brani fatti con dei professionisti. Ma è troppo presto per parlare di questa cosa, perché sarà un processo lungo e complicato, e speriamo di riuscire a portarlo a termine. Detto questo, vi lascio con la canzone, poi sigla, poi buona domenica, e oggi alle 17 con Walter Sbano e Prova Microfono. Tra le macerie di un campo devastato, un bambolotto, sguardo spento e immacolato, tra le braccia di un padre desolato, il sorriso si fa pianto, il futuro è già passato. Ninna nanna, fumo e cenere, sui tetti cade come rabbia nella casa che è diventata sabbia. Ninna nanna, fumo e cenere, ad un cielo che non sente, mentre una nuova alba di fuoco avvolge la gente, la morte il suo tributo chiede nuovamente, il mondo chiude gli occhi ciecamente. Vittime innocenti tra fede e sgomento, alla pena non c'è fine in questo accampamento. I bambini danzano con l'angelo scuro, pagano il prezzo di questo giro tondo amaro. Ninna nanna, fumo e cenere, sui tetti cade come rabbia nella casa che è diventata sabbia. Ninna nanna, fumo e cenere, ad un cielo che non sente, mentre una nuova alba di fuoco avvolge la gente, la morte il suo tributo chiede nuovamente, il mondo chiude gli occhi ciecamente. La Lacrime amare, un fiume che tace. Sul volto della pace ormai sbiadita e lontana. Tra i quartieri fantasma, dove la speranza è vana. Solo cenere amara, è un tuono che non tace. C'è un deserto al di là del confine. C'è un mondo che non conosce amore. Non nasce un fiore, non si sente un suono. C'è un deserto che si fa chiamare uomo. Ninna nanna, fumo e cenere. Diventata sabbia, ninna nanna, fumo e cenere. L'urlo dei padri ad un cielo che non sente. Mentre una nuova alba di fuoco avvolge la gente. La morte il suo tributo chiede nuovamente. Il mondo chiude gli occhi ciecamente. Simone Pizzi, il grande reset, un dialogo sincero per costruire insieme un futuro più vero. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, ascoltarsi e confrontarsi con menti aperte e cuore. Runtime Radio, la voce del progresso, Simone Pizzi ti aspetta. Per un nuovo inizio.